Conti fatti. La storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Esiste una connessione tra il denaro e la sfera del sacro? L'interrogativo è alla base di un interessante volume dal titolo Il Dio Denaro per una storia teologico-politica della moneta, curato da Michele Nicoletti e Paolo Evangelisti ed edito da Morcellani. Volume che raccoglie gli interventi di un seminario che si è svolto nel gennaio del 2018 presso l'École Française de Rome, un progetto condiviso con gli storici dell'antichità, del Medioevo e dell'età moderna. Ne parliamo questa sera proprio con Paolo Evangelisti, studioso documentalista dell'Archivio Storico della Camera dei Deputati, docente presso il Pontificio Ateneo Antonianum di Roma. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito. Nessuna moneta che possiamo da subito distinguere nella sua mera consistenza di denaro, metallico o cartaceo che sia, o veicolato da altri materiali, possiede un valore se esso non include una componente immateriale costituita dal tasso di credibilità, di affidabilità. Non è possibile usare una moneta senza credere in essa. Dopo il 1971, data che segna l'inizio di una nuova era per la storia della fides della moneta, lo stesso ex presidente della BCE, Mario Draghi, ne ha dato ampiamente prova adottando un linguaggio e conseguenti politiche monetarie a partire dal noto whatever it takes. Ma la dimensione mistica e poi teologica della moneta può essere riscontrata anche su altri versanti strutturanti, costitutivi di questo strumento convenzionale, tipicamente giuridico perché essenziale a ogni società, così come è stato rilevato da una linea di pensiero che da Aristotele giunge, variamente declinato, ad Alberto Magno, al suo allievo Tommaso, a intellettuali del francescanesimo 2-400, ai commentatori traduttori, laici e non, dei passi classici di Aristotele, prima latino e poi greco, sino almeno al XVII secolo. È rilevante il ruolo svolto in questo ambito dalle accademie toscane e venete di età tardo e post-rinascimentale. Dunque, professore Evangelisti, stando a quanto lei scrive nel libro, la moneta è un'istituzione che attraversa tutte le fasi storiche della vita dell'uomo ed è legittimata da tutte e tre le religioni monoteistiche. E dunque, teologia e moneta si intrecciano? Teologia e moneta si intrecciano, credo, più di quanto ognuno di noi, quando ogni giorno magari tira fuori 1 o 5 euro dal borsellino, possa aver presente, perché la moneta, e non solo il denaro, ma la moneta come istituzione, è un elemento centrale che mette in relazione gli uomini, e questo seminario ha avuto, secondo me, il pregio di mettere in contatto, diciamo, sul lunghissimo periodo, dal periodo pre-greco fino al XXI secolo, il ragionamento e le legittimazioni di tutte e tre le religioni monoteistiche rispetto alla moneta. Questo direi che è un dato fondamentale che da questo volume emerge con grande chiarezza da moltissimi interventi. Ecco, lei sostiene che la moneta non è semplicemente denaro metallico o cartaceo, ma è un'istituzione ed è espressione oggettiva di quella che potremmo definire una relazione fiduciaria tra gli uomini e per gli uomini. E allora che dire allora del Bitcoin e delle monete cosiddette virtuali? Certo, qui si gioca una partita molto importante e credo che proprio nel momento in cui c'è una, diciamo, una concorrenza, potremmo definirla, sul mercato di queste monete non monete o monete che si vogliono autolegittimare come tali, addirittura qualificandosi come anarchiche o libertarie, in evidente contrapposizione con la moneta, diciamo così, alla quale noi siamo abituati, questo ragionamento sulla teologia e sulla dimensione istituzionale della moneta è fondamentale, perché la dimensione fiduciaria è propria della moneta quando essa è istituzione. Se io ho un bitcoin in mano, a chi mi rivolgo nel momento in cui questa quotazione viene alterata secondo il mio modo di pensiero, la mia sensibilità? Non esiste un'autorità che ci garantisca rispetto a una quotazione del bitcoin, a meno che non si voglia prendere del bitcoin quello che esso è in realtà, cioè un titolo, un'azione, un valore convenzionale, ma che non può definirsi moneta. Ecco, in questo contesto, qui cito ancora un suo scritto, che si inserisce la teologia monetaria, cioè il peso che essa ha esercitato lungo i secoli, dall'età protocristiana a Carl Schmitt, per non parlare poi dell'incisivo saggio di Walter Benjamin, Capitalismo come religione. Dunque, come dire, non solo la storia ma la teologia ci mostrano questa connessione. Voi l'avete approfondita in particolare nel volume? Sì, l'abbiamo approfondita in particolare perché diciamo la sacralizzazione della moneta è un elemento costante di questo oggetto, che se voi pensate anche oggi, non, come dicevate in apertura nella prima lettura che avete fatto molto, molto efficace, dopo il 1971 noi usiamo la moneta solo in ragione della fede, cioè della fiducia che noi riponiamo in essa. Come sappiamo benissimo, nessuno può andare più in qualsiasi banca nazionale a chiedere una conversione in oro o in altri valori. La moneta è pura fiducia tra persone e tra istituzioni. Quindi la dimensione della credibilità, che diciamo poteva essere, è stata sepolta con la fine diciamo della presenza della religione diciamo nel modo, nelle istituzioni e nella vita di ogni giorno, in realtà torna potentemente proprio dopo la sospensione della convertibilità e quando diciamo oggi come oggi la moneta è un semplice fiat money. In questo senso, tornare a leggere quello che le persone e gli intellettuali hanno detto lungo i secoli è importantissimo, perché oggi diciamo, per usare una frase di Piketty, quando diciamo l'economia ha esaurito come scienza la sua dimensione di legge divina, di matematica autolegittimante, tornare a leggere quello che i non economisti hanno detto della moneta come istituzione, credo che sia veramente un contributo che può essere letto non solo dagli storici, ma soprattutto da chi si occupa proprio del governo della moneta, dei giuristi, degli uomini che la governano nelle istituzioni monetarie anche sovranazionali. Ecco, a proposito di governo della moneta, professore Evangelisti, ma la moneta dunque si connette anche alla dimensione della sovranità in qualche modo? Certo, la moneta senza un versante sovrano, senza un versante giuridico, non ha senso, sarebbe semplice denaro. Quindi quello che per esempio nel Medioevo un francescano che ha dedicato molte pagine della sua riflessione alla moneta, dicendo che la moneta non appartiene al sovrano ma alla comunità che la usa e che da essa è rappresentata, teorizzando addirittura che il sovrano che falsifica la moneta è lui reo della lesa maestà nei confronti della moneta. Pensate che tipo di ragionamento è riuscito a mettere in piedi insomma un intellettuale di metà del 300. Ecco che diciamo in questo senso torna tutta intera la dimensione teologica e sacra della moneta. Oppure ancora vorrei ricordare Nicolao Rem, il primo autore di un testo monografico sulla moneta, che diceva che appunto la moneta appartiene alla comunità e che qualora il sovrano si permetta di alterarla in qualunque forma, sarebbe come se lui andasse a violentare una donna dentro la casa in cui lei vive con il suo marito. E questo ragionamento diciamo di sacralizzazione comunitaria della moneta, secondo me, ha un forte impatto anche nella contemporaneità, insomma, in quello che oggi significa per noi moneta come rappresentazione delle comunità. Allora, un'ultima domanda, professore Evangelisti. Sia il libro che il seminario parlano di Dio denaro. Come mai avete scelto questa dizione? Beh, l'abbiamo scelta in parte provocatoriamente, ma certo, mettendo volontariamente Dio con la D maiuscola. Qua, diciamo, in questo convegno non c'era nessun, come dire, accento pauperistico o, come dire, che volesse in qualche modo delegittimare il mondo dell'economia e l'uso della moneta. Anzi, noi diciamo il nostro centro della riflessione era proprio il rapporto stretto che esiste appunto tra divinizzazione della moneta per dare dignità a questo mezzo che ci rappresenta. Quindi il dio denaro vuole significare proprio la necessità che chiunque, come dire, governa la moneta deve rispettarla nel suo valore profondo, che è quello di mettere in relazione gli uomini, e come dicevano gli antichi, una moneta che è istituita per gli uomini e credo che questo sia un messaggio che vada custodito con cura. Bene, allora noi la ringraziamo molto per essere stato con noi, per averci illustrato nel dettaglio il contenuto di questo interessante libro, Il Dio Denaro per una storia teologico-politica della moneta. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Luca Cremonese in redazione, cari ascoltatori, a risentirci la settimana prossima. Buona serata a tutti. Buona serata.